50. Padrone della vita, è giunto al tuo cospetto un grande guerriero, che conobbe il popolo della Selce nella sorte avversa e con esso intrecciò il suo destino, come il wampum che stringo tra le mani. Il suo nome è Ronaterionte. I fiumi e le valli hanno conosciuto la sua fama e il suo coraggio. Egli ha difeso la nazione nel pericolo, ha vissuto insieme a noi il tempo della carestia e della miseria. Ci ha insegnato che quando l'ombra cala sulla terra non è l'onore ciò che conta, ma la salvezza di chi è minacciato. Nostro fratello Ronaterionte ha oscurato la sua luce per attraversare le tenebre insieme al suo popolo. Padrone della vita, accoglilo come si conviene al più nobile degli uomini. Amen. Johannes de Carioga abbassò le braccia che aveva proteso verso il cielo, illuminato dal sole. Il lago brillava dorato davanti alla roccia da cui era solito contemplarlo. Quando udì il battito d'ali sorrise, volse il capo e vide il picchio zampettargli accanto. «Sei tornata, amica mia!» Avvertì il tepore di mezzogiorno, benché novembre già mordesse. Respirò a fondo e provò una sensazione di vigore antico, di energia rinnovata che attraversava le membra. Assaporò il vento che si infilava tra i salici. Sentì scorrere nelle vene l'acqua che lo circondava mentre pareva ascoltare l'annuncio di un evento propizio. La superficie del lago era popolata di spiriti, avi, guerrieri, sachem e matrone dei clan, consapevoli del destino della propria discendenza. Il picchio balzò sulla spalla. L'anziano Mohawk distese il volto. «Ecco, i nostri padri mi aspettano». Il capo del clan della tartaruga inspirò forte dalle narici e guardò ancora il picchio. «Il mio cuore sarà con voi, nel giardino, al centro dell'acqua». Sussurrò appena fra le labbra, socchiuse gli occhi e parve assopirsi. Il picchio volò via, verso il lago e le sagome scure delle navi che apparivano all'orizzonte. Una salva di cannone e le grida delle vedette partirono dai torrioni del forte, mentre il corpo del vecchio sachem scivolava nell'acqua. Guy Johnson camminava sul pontile a grandi passi, rallentato dalla massa di straccioni che saliva sulle navi, insieme a cucciolate di figli, masserizie e bestiame smagrito. Appena sceso a terra, l'aveva colpito il silenzio, come se tutti avessero deciso di non farsi udire, timorosi che la via della salvezza si chiudesse come s'era aperta. Capì di essere arrivato appena in tempo. Il viaggio era durato oltre un anno. Partito da New York, all'inizio dell'autunno del 78, un gelo terribile lo aveva bloccato ad Halifax, fino alla primavera inoltrata, quando era ripartito e aveva raggiunto Montreal. Poi giù, lungo il San Lorenzo, fino al lago, e adesso Niagara. I racconti di miseria e stenti non preparavano all'impatto con la realtà. Un popolo fiero e tenace conosceva il disfacimento e l'abbandono, la carestia e la morte. Anche piccoli frammenti di altri popoli si raggrumavano in quell'angolo di mondo. Seguivano il destino degli irochesi, mescolati nel grande carnaio, ancora fedeli, per convenienza o convinzione, al re che stava a Londra. Riuscì a farsi largo in mezzo alla ressa e a raggiungere la salita che portava al forte e al campo profughi. Si fermò a riprendere fiato e contemplò lo spettacolo di quell'andirivieni sotto il cielo limpido che faceva biancheggiare le mura. Corpi dolenti e consumati dalla fame trascinavano i piedi sulla riva. I pochi soldati della guarnigione regolavano il flusso senza troppi sforzi. Una lugubre processione era quanto rimaneva delle sei nazioni. Poco più di 5 anni erano trascorsi dal funerale di William Johnson, ma valevano un secolo, e sul sogno che un tempo pareva solida roccia si ammassava una catasta di miseria e morte. Pensò a quanto aveva lottato e rischiato per ottenere la nomina di commissario del Dipartimento indiano e a quanto poco essa significasse ormai. Tornò a scrutare la folla. In ciascuno dei volti, conosciuti o ignoti, rintracciava il tratto comune della materia che li plasmava. Terra scura della notte dei tempi, il volto dei vecchi. Terra rossa di roccia striata, quello degli ultimi guerrieri. Polvere bianca e marmorea, il viso delle giovani donne. Una di loro si avvicinò. L'espressione di dolore colpì Guy. «Padre!» disse lei. La guardò attonito, incapace di riconoscere in quella donna la sua bambina. Portava i capelli acconciati come un'indiana. «Esther, buon Dio, Esther!» Voleva abbracciarla, ma non sapeva come farlo. Un intero oceano si era frapposto tra loro, poi un continente. Erano estranei, ma Guy sperava di poterle ancora offrire un alleato e una vita nuova. Aveva attraversato l'America per quello. «Perché siete qui?» Guy lesse il lutto negli occhi della figlia, ma anche una forza innata che lo sconcertava fin da quando era bambina. Adesso lo riconosceva. Era lo sguardo di William Johnson. «Ti riporto a New York, ce ne andremo da questo paese». «È tardi», disse Esther. Lasciò che il padre le prendesse la mano tra le sue. «Non è vero», insistette Guy. «Possiamo tornare a Londra, lontano dalla guerra». «Sapete che non verrò. Sono tuo padre, non parto senza di te». La donna fece una cosa inaspettata. Gli sorrise. «Il futuro non è alle nostre spalle, ma davanti a noi», disse, «oltre questo lago, le mille isole. È là che stiamo andando». «Devo proibirtelo». «Ma non lo farete». Gli si avvicinò fino a sfiorargli una guancia con la mano. «Abbiate cura di voi e delle mie sorelle». Si staccò da lui e subito si trattenne. «Vi prego, non rammaricatevi. È quello che doveva accadere». Scese verso il pontile dove Molly Brent aspettava immobile, avvolta in un mantello bianco. Guy avrebbe voluto trattenerla, ma non riuscì a parlare né a muoversi, le braccia inerti lungo il corpo, la bocca serrata. Joseph riconobbe la figura solitaria in cima alla collina. Di tutti i bianchi che si aspettava di vedere, Guy Johnson era davvero l'ultimo. Provò un moto di compassione, come se percepisse lo sforzo che aveva compiuto per arrivare fino a lì. «Joseph!» disse Guy stordito. «Ho perso tutto, anche mia figlia». «Ha trovato il suo posto», disse l'indiano, osservando la donna che si allontanava. «Possiamo dire lo stesso di noi?» Guy parve rassegnato. «Che farete adesso?» chiese. Joseph rispose senza pensare. «Lotterò per il tempo che rimane. Morirò con onore». L'irlandese drizzò la schiena, recuperando il controllo di sé. «Vi auguro buona fortuna». L'indiano strinse la mano tesa. L'espressione amara di Guy Johnson sparì sotto il tricorno. Joseph lo guardò allontanarsi in direzione del molo e attraversare la folla assiepata intorno alle barche. Per un po' il cappello riemerse ancora nel mare di teste, poi scomparve del tutto. Joseph fece un cenno a Kanatawakon e scesero al lago. Molly sovrintendeva all'imbarco, vegliando sul lento esodo che stava per avere inizio, atto finale di un viaggio iniziato 4 anni prima. «Sei venuto a dirmi che non verrai con noi». «Abbiamo ancora conti da saldare», l'abbracciò. «Proteggi i miei figli e nostra madre». Isaac, Christina e Margaret erano già su una delle barche e lo guardavano incerti. Lui stesso si era premunito di farli salire tra i primi. Isaac volse la testa dall'altra parte. «Ti aspetteremo», disse Molly. Joseph raccolse la bisaccia e la passò a tracolla. Si incamminò, lento, dietro Kanatawakon, contro la corrente di esseri umani che si riversava sulla riva. Esther guardò la terra allontanarsi ancora una volta, sfiorò il vampum che portava al polso. Presto avrebbe rivisto Philippe. Conosceva la strada, l'aveva già percorsa. «Non esistono lutti per chi è capace di sogni. Avevi detto di tenere pronta una barca, amore mio. Eccola». Philippe sarebbe saltato a bordo, insieme avrebbero attraversato il lago, tanto grande da non vederne la fine. Esther guardò Molly, ritta sul castello di poppa. La vista della donna le infuse coraggio. «Non esiste distruzione per chi comprende la legge del tempo». Pensò alla vita che l'attendeva e al nuovo mondo che avrebbero costruito, nel giardino al centro dell'acqua, le mille isole, Manituana.